Effetto Mondo. Eccoci qua, ciao Giulia, Giulia Crivelli, buongiorno. Ciao, ciao, buona Verona, bello anche grazie. Lì. Grazie. Che magari sì. Vedi anche qualche montagna. Ma guarda, adesso siamo chiusi comunque all'interno dei padiglioni, tra il sesto e il settimo di Verona Fiere, anzi lo diciamo perché non abbiamo ancora detto dove siamo a trasmettere in diretta qua da Verona, anzi questo per me è un momento nel quale mi rilasso un po' con te, ne approfitto Giulia, grazie, anzi ti ringrazio perché comunque è stata una mattinata abbastanza convulsa, l'organizzazione, la trasferta, come sai, gli ospiti. Adesso raccontaci, che cosa ci racconti? In Gran Bretagna? No, prima di tutto vorrei dire che il mio sogno sarebbe avere un camino, ma qui a Milano sono fuori legge, credo, come i cammini sono meravigliosi, grande fascino, non abbiamo avuto il tempo neanche di pensarlo a questo fascino, di godercelo, perché abbiamo avuto subito affrontare i temi più, diciamo, più problematici, quello delle emissioni, però naturalmente il fascino resta, certo. E tra l'altro sentivo che nei titoli citavi anche tu questa questione del Regno Unito, è forse la notizia che ha più spazio già sui quotidiani britannici di oggi, perché appunto avevano cominciato a circolare le prime indiscrezioni su queste misure. E il tema è appunto che Boris Johnson l'ha sempre detto, il sistema australiano, questo sistema a punti, lo avrebbe ispirato per la grande riforma sull'immigrazione, che era parte non solo della sua campagna elettorale, ma era stato naturalmente un grande tema del referendum sulla Brexit, e adesso appunto cominciano a esserci, però ora si sa, quello che riportano i giornali è ancora poco, cioè questo reddito minimo che devono avere le persone che aspirano a immigrare nel Regno Unito, cioè dei 25.600 sterline, che non è pochissimo, per alcuni anni non potranno beneficiare di vari benefit legati al welfare, dovranno pagare un canone, diciamo, annuale per la sanità, insomma tutto diverso dalla libera circolazione che permetteva che c'era fino ad oggi. Quindi e poi anche un sistema, se abbiamo capito bene, non so se già nell'anticipazione della stampa di oggi si legge anche questo, in quello che è stato comunicato poco fa, un sistema a punti favorire le alte qualifiche, quindi chi non ha una qualifica rischia di rimanere. Sì, che naturalmente i quotidiani, specie quelli magari più progressisti, sottolineano che allora chi li farà poi i lavori a, diciamo, poco qualificati, visto che nel Regno Unito, come in Italia, come in tantissimi altri paesi, certi lavori i ragazzi, i giovani non li vogliono più fare. Quindi insomma vedremo quando avremo più. Che Londra è piena di camerieri italiani o stranieri, comunque, tanto per fare un esempio. Comunque se vuoi abbiamo un piccolo audio di appunto queste poche anticipazioni. Workers would have to earn a certain salary amount, around £25,000, although there would be exceptions. You could earn £20,000 if you were from a particular profession with the right skills. Ecco, naturalmente ci saranno tutta una serie di eccezioni, perché se si viene da certi paesi o si hanno delle qualifiche molto particolari artigianali, si può scendere a 20.000 sterline. Comunque, insomma, ma scusa, chi era la ministra questa? No, era la speaker della BBC, che insomma era poi ha dato poi la parola alla corrispondente che era a Westminster. E poi, forse qualche ascoltatore se lo ricorderà, il 24 dicembre qui a Effetto Mondo c'era anche mia nipote che vive a Londra ed era rimasta molto, molto scioccata, e ci aveva spiegato che questa notizia dell'arresto di una famosa presentatrice del reality più seguito, Love Island, l'aveva molto colpita. Adesso questa ragazza, la chiamo ragazza perché aveva 40 anni, si è suicidata. Lei era stata arrestata perché accusata di aver picchiato il fidanzato. Si è suicidata perché naturalmente, all'arresto è seguita una gogna mediatica, e ieri che ci sono stati i Brit Awards della musica, un po' come i Grammy negli Stati Uniti, il presentatore l'ha ricordata perché insomma ha fatto molto effetto. Il dibattito è: da una parte non si poteva non arrestarla o non fare delle indagini o non dare seguito alla denuncia del fidanzato che appunto sostiene che lei lo picchiasse, e dall'altra però, proprio perché lei era una persona così famosa, alla fine è stata oggetto di un'attenzione, di una gogna mediatica, vi lascio immaginare sui social, che probabilmente ha aggravato già una sua situazione di fragilità, e comunque insomma alla fine l'hanno trovata suicida nella sua abitazione. E quindi insomma questa... Che altro abbiamo sui giornali, Giulia? Coronavirus, questa, altre questa, notizie corona, dove ma, ci porti? No, dall'Inghilterra però te la devo dire, perché so che tu ogni tanto prendi un po' in giro questa cosa. Nei luoghi di lavoro sarà obbligatorio, perché in molti posti, in molti luoghi di lavoro nel Regno Unito ci sono le food stations dove uno può mangiare la sua schiscetta, ci vorrà un frigorifero dedicato ai vegani, perché non vogliono mischiare il loro cibo con quelli che vegani non sono. Neanche a fianco sullo stesso ripiano. Vabbè, non so se tutti i vegani sono così preoccupati dalla sola vicinanza, o se diciamo siamo di fronte a un caso di estremismo vegano. Però prendiamo atto. No, coronavirus, insomma, dappertutto. Pensate, addirittura Financial Times ha due aperture diverse. Per l'edizione britannica parla di questa decisione della Jaguar Land Rover, che praticamente chiuderà le sue fabbriche perché non arrivano i componenti dalla Cina. Financial Times, edizione globale, invece ha una notizia simile, che è quella che riguarda la Apple, che chiuderà probabilmente di fatto lo stabilimento più grande che ha in Cina dedicato alla produzione di iPhone, che è chiuso perché i dipendenti non possono uscire di casa e andare a lavorare per precauzione, appunto, per evitare il contagio da coronavirus. Allora, giornali tedeschi, forse ancora alla ricerca di questo sconosciuto successore di Angela Merkel? Sì, è interessante perché appunto la CDU è un po' in crisi di identità, e fa anche un po' effetto che per ora candidati donne non ce ne siano, dopo insomma Angela Merkel e sappiamo la Kramp-Karrenbauer, e quindi quasi sicuramente sarà un uomo, ne parlano la Welt, la Süddeutsche Zeitung. È interessante anche l'interpretazione di Le Figaro, che dice, è un po' quello che dicevamo anche settimana scorsa, che a questo punto la CDU deve recuperare un po' del suo elettorato più conservatore, più di destra che di centro, questo probabilmente sarà il compito del prossimo, prossimo leader della CDU. Ricorderete quel discorso dove Angela Merkel diceva, la Kramp-Karrenbauer diceva, mai con la AfD, l'estrema destra, ma anche mai con la Linke, l'estrema sinistra. Che cos'altro abbiamo? Ma se vuoi ti do dagli Stati Uniti ha colpito molto tutti i giornali, del Washington Post, che mette tutte le foto di questi 11 persone che hanno ottenuto o proprio la grazia da Donald Trump, o che alle quali ha commutato la pena da carcere a qualcos'altro. Forse il più famoso anche in Italia è Michael Milken, che alla fine degli anni 80 era il re delle cosiddette obbligazioni spazzatura. È un uomo che nel 1987, senza neanche calcolare la rivalutazione, aveva guadagnato $1 miliardo. Si dice che Oliver Stone poi si ispirò a Michael Milken per il famoso film Wall Street con Michael Douglas. In ogni caso, nel frattempo ha fatto un po' di carcere, poi è diventato anche un filantropo, ha investito molti dei suoi guadagni da obbligazioni spazzatura in ricerca sul cancro. Però insomma fa lo stesso molto effetto questa soluzione. Poi ha anche graziato l'ex governatore dell'Illinois perché aveva praticamente cercato di vendere un seggio al Senato, ha graziato l'ex capo della polizia di New York che ne aveva fatte più di Bertoldo, insomma fa effetto. E Trump, noi dobbiamo graziare gli ascoltatori, mi sa, della nostra presenza, perché siamo quasi in chiusura, Giulia. No, l'ultima cosa è che la questione giustizia, importantissima qui ma anche negli Stati Uniti, perché sapete che Trump ha in corso un diverbio con l'attuale ministro della giustizia, che è Barr, che sta anche ieri ha di nuovo minacciato le dimissioni, quindi insomma anche lì la giustizia è un bel problema. Grazie Giulia, ti ritroviamo domani naturalmente. Grazie Giulia Crivelli. È tutto per questa puntata di Effetto Giorno, con Maria Bernardi, regia, Jacopo De Franchi, Laura Faggini in redazione, la squadra di Radio 24 da Verona, Filippo Aureggi, Elena Ligios, Flavio Ferrario. Ci sentiamo domani, ciao da Alessio Maurizi.